a farci fare questo passaggio di cui vi dicevo prima, cioè di andare alle radici, perché Don Ignazio Andrea, che adesso lo presenterò bene quando poi mi siedo lì e si siederà con me, ma è quello che anni fa ha dato proprio inizio all'Università Cattolica Argentina allo studio dei fondamenti psicologici, diciamo allo studio della psicologia che c'era prima della modernità, al recupero, ecco, di quello che c'era prima della modernità e alla sintesi tra quello che cioè all'inizio del lavoro di sintesi tra quello che c'era prima, quindi l'ascito dei grandi santi sostanzialmente, principalmente San Tommaso d'Aquino, ma non solo, ce ne sono tanti, Sant'Agostino ha scritto pagine bellissime, no? Le confessioni abbiamo letto, penso tutti, no? Pagine bellissime di riflessione, ma San Giovanni della Croce, un autore un po' difficile, infatti che abbiamo bisogno di maestri che ci spieghino, che ci introducano a questi autori, che hanno una saggezza, secondo me, per il mio bagaglio personale, di gran lunga superiore ai vari autori delle psicologie contemporanee, no? Ed è una parte che va integrata. E oltre a Don Ignazio Andereghen, abbiamo Padre Ignazio Andereghen, è sacerdote, teologo, è professore ordinario di metafisica e di gnoseologia alla Facoltà di Filosofia all'Università Cattolica Argentina a Buenos Aires. È docente alla Gregoriana e all'Ateneo Regina Apostolorum a Roma, è autore di tanti articoli e testi, quelli più vicini a noi sono questo qui, che è un testo fondamentale, si chiama La psicologia ante la gracia, è in spagnolo, e contiene il resoconto di alcune giornate che gli argentini fanno una volta all'anno, se non ho capito bene, proprio di riflessione un po' come noi, di riflessione sul rapporto tra la psicologia e il cristianesimo, diciamo così. E poi ha scritto anche un bel libro sull'introduzione alla teologia di San Tommaso, che per chi ha voglia di approfondire, secondo me è uno dei testi più utili, anche perché ci dà una lettura di San Tommaso che secondo me non è facile trovare nei libri contemporanei. E quindi è molto interessante. A lui abbiamo proprio chiesto, lo ripeto e poi gli lascio la parola, di aiutarci a fare questo lavoro di recupero della nostra tradizione. Grazie. Grazie. Grazie dottore Stefano Parenti, che mi ha accolto sempre con molta bontà e generosità nel suo sito, traducendo pure lui stesso alcuni testi, e dunque ci conosciamo da molto tempo per questo suo lavoro. La ringrazio anche per le sue parole, che sono un po' esagerate. E poi comincio subito. Il tema ha molta complessità dal punto di vista epistemologico. Dunque, che cosa è la psicologia? Non è facile sapere che cosa è la psicologia. Infatti, in quello che noi modernamente chiamiamo psicologia ci sono diversi livelli scientifici che bisogna distinguere accuratamente. Se vogliamo fare il nesso con una realtà che per noi è principale, cioè quella di Cristo, quella della grazia, quella dell'uomo chiamato a una vocazione che trova il suo compimento nella Trinità, e dunque dobbiamo per forza aggiungere il livello teologico. Questo livello teologico è quello più elevato e dunque è quello che finalmente produce la sintesi, l'unità di tutti gli altri livelli epistemologici, da quello metafisico agli altri che sono subordinati, nel senso della metafisica classica di Aristotele soprattutto, ma anche prima di Platone, dunque il livello delle scienze, come direbbe Aristotele, fisiche, per noi antropologiche, l'uomo a corpo, E dunque anche qui ci sono diversi livelli, perché si può studiare l'uomo dal punto di vista della sua condotta esterna, si può studiare l'uomo dal punto di vista della sua organicità, dell'influsso, delle trasformazioni organiche sulle potenze sensitive che hanno organo corporale, sull'affettività che ha organo corporale, ma possiamo anche fare un'analisi razionale come quello della psicologia classica del XX secolo, anzi razionalista, come quello della psicoanalisi di Freud, che finalmente, al di là dell'inconscio, la libido, eccetera, una psicologia della ragione, dunque dello sviluppo dell'uomo che si autocomprende razionalmente. Se dovessimo fare questa analisi epistemologica avremmo bisogno di tanto tempo, qui non l'abbiamo, dunque propongo un altro metodo, cioè centrare due problematiche principali che presentano ancora due autori cristiani, cattolici, della tradizione, che hanno studiato con molta cura gli aspetti che oggi corrispondono alle scienze psicologiche. Mi riferiscono in primo luogo a San Tommaso d'Aquino, già citato dal dottor Parenti, e poi a San Giovanni della Croce, un altro dei grandi punti di riferimento. Il primo autore, in continuità con la tradizione patristica, Leone XIII diceva nell'Eterni Patris che San Tommaso, seguendo tutti gli altri padri, aveva acquisito la saggezza di tutti questi insieme. Dunque, San Tommaso che segue, in questo punto che interessa a noi, soprattutto Agostino, il grande dottore della grazia, ma anche il grande dottore del peccato originale. Agostino, che ha avuto una vicenda umana molto complessa e che ha sviluppato per primo nel pensiero cristiano un grande metodo introspettivo. Dunque San Tommaso, discepolo di Sant'Agostino, soprattutto per quanto riguarda il rapporto problematico, complesso, a volte oscuro, tra la natura, che Tommaso definisce corrotta, e la grazia. Che vuol dire che l'uomo ha una natura corrotta? Non vuol dire naturalmente quello che pensava Lutero, ossia che la grazia è una cosa totalmente estrinseca, che non c'entra niente con la natura umana, perché questa rimane così come è. Non è il pessimismo luterano e del pensiero che procede da Lutero nella modernità è quello che definisce la concezione dell'uomo di San Tommaso. Tuttavia, San Tommaso è molto realista, non solo realista nel senso filosofico, come diciamo che c'è un pensiero realista, ma realista nel senso concreto, ossia perché l'uomo è così come noi lo vediamo, anzi come lo vedevano pure i filosofi prima di Cristo. Già Platone diceva che la maggioranza degli uomini segue le passioni, e dunque ci vogliono i filosofi per comandare, ma anche i filosofi sono corrotti, dunque rimangono pochi. Platone, Aristotele lo stesso, quasi tutti gli uomini seguono le passioni, non la ragione, ma la vita autenticamente umana è quella di seguire la ragione e dunque di diventare virtuosi. Il cristianesimo naturalmente dà la risposta a questa problematica, ma questa risposta supera la ragione. Cioè, che cosa guarisce l'uomo? Non soltanto un individuo isolato, un grande filosofo che ha una capacità razionale superiore, che dunque può puntare alla felicità metafisica, ma l'uomo come tale. Che cosa guarisce l'uomo? La risposta cristiana è molto, molto chiara, è Cristo che dà la grazia, e la grazia sana la natura e poi la perfezione. E le due cose sono inseparabili. Dunque c'è una ricostituzione della natura. Il peccato fa perdere l'integrità della natura umana. Questo vuol dire che la metafora della corruzione è molto adatta. Corruzione dell'essenza umana, della natura umana, non è semplicemente qualche atto che non funziona bene, qualche atto sbagliato dell'intelletto, qualche atto di cattiva volontà, oppure qualche deviazione negli affetti, nell'immaginazione, nei sensi. Si tratta dell'essenza umana corrotta. E questa è una verità tanto radicale che non solo i filosofi l'hanno individuata, ma l'ha individuata vicino al nostro tempo anche la psicologia, incominciando da Freud. Uno dei punti centrali della psicanalisi di Freud, spiegando la natura umana come tale, anche se per lui non c'è natura, perché è evoluzionista, eccetera, ma quello che noi chiamiamo la natura è proprio il tema del peccato originale. Nel libro famoso Totem et Tabù c'è un lungo passaggio su questo: che cosa significa il peccato originale e che cosa significa che l'uomo supera i disagi prodotti da questo peccato originale, e vuol dire che lo fa consapevole, far diventare conscio ciò che è inconscio, come dice dappertutto Freud. Dunque il peccato originale che diventa cosciente. Ma che vuol dire cosciente? Che l'uomo non è a disagio con questo peccato originale, ma è che lo riconosce razionalmente come la fonte stessa dell'umanità. Dunque l'uomo che diventa Dio invece del padre, ossia di Dio inteso come padre. La religione del figlio rimpiazza la religione del padre. La religione del figlio è il cristianesimo, la religione del padre è l'ebraismo, e dunque gli ebrei si sentono in colpa, e questo sentimento mette loro a disagio. I cristiani sono i superuomini, come diceva Nietzsche. Dunque, anzi, Cristo è il superuomo, perché è quello che diventa Dio invece del padre, e questo lo fa uccidendo se stesso. Dà una spiegazione molto complicata di questo suicidio. Significa che il peccato originale era un omicidio, era l'omicidio del padre, eccetera, tutto quello che sappiamo di Totem e Tabù. Questo per dire che il peccato originale è una questione centrale non solo nella teologia, intesa quasi astrattamente, ma proprio nella psicologia. Se non si capisce il peccato originale, non si capisce l'uomo così come veramente è. Dunque non si tratta di alcuni atti deviati, si tratta della natura umana. Vediamo come spiega questo San Tommaso in un testo molto importante della Somma di Teologia, nella seconda parte. La seconda parte riguarda le operazioni umane, dunque lo sviluppo morale, ma morale non in senso kantiano e freudiano come regole repressive, ma nel senso di pienezza, nel senso di virtù naturale e soprannaturale. Dunque qui parla della legge nuova, il Vangelo. Ma che cos'è il Vangelo? Non è un testo esterno, il Vangelo è la grazia. Il Vangelo è la grazia stessa di Cristo che ci risana interiormente. E come possiamo intravedere questa grazia? La grazia è proprio divina, la grazia è troppo elevata per essere compresa da noi. È divina, e Dio non lo possiamo capire, non c'è un concetto di Dio, non c'è l'idea di Dio. Supera totalmente la nostra ragione. Dunque anche la grazia, se è divina, non la possiamo capire, e indirettamente però quasi negativamente possiamo intravedere che cos'è la grazia attraverso l'analisi della sua necessità. È proprio il tema della questione 109 della prima seconde della somma di teologia. Perché è necessaria la grazia? Dunque, molto ragionevolmente, San Tommaso analizza che cosa possiamo fare con la grazia e che cosa non possiamo fare senza la grazia. Se non abbiamo la grazia, ci sono delle operazioni essenziali alla vita umana che non si possono realizzare. Ed è qui che troviamo una grande idea centrale. L'uomo senza la grazia è malato, dice San Tommaso, è infermo. Certo, è un'analogia, ma è un'analogia propria. Non si riferisce semplicemente alle malattie fisiche che pure derivano dalla perdita della giustizia originale. Si sta riferendo proprio alla malattia psichica. L'anima dell'uomo, che è la parte principale dell'uomo intero, è malata. Anzi, la natura è malata. E proprio l'espressione che usa, l'ho citata, è natura corrotta in latino. Spesse volte si traduce in un altro modo, sia natura ferita, natura vulnerata, eccetera. Ma lui, seguendo Sant'Agostino, che è il grande dottore della grazia, ma anche del peccato originale, dice natura corrotta. E qui natura è da intendersi nel senso metafisico, sia essenza, l'essenza umana è danneggiata dal peccato originale. Questa essenza non ha nessun mezzo di ricostituzione se non per mezzo della grazia. E qual è il fondamento metafisico di questo? Che la grazia è essere. Dunque la natura è partecipazione dell'essere divino, dell'essere creatore di Dio. L'essere non viene che per creazione. Se non c'è l'intervento divino, quello che si è perso dell'essere non si può recuperare. Ci vuole una nuova creazione. Infatti San Paolo dice siamo nuove creature. Ci vuole una nuova donazione dell'essere, che è l'operazione propria di Dio. Dio è creatore, Dio dona l'essere. La grazia è essere. Quello che ha perso l'essere non lo può recuperare da sé, nessuno si può autocreare. L'essere viene ricevuto da Dio, come nella prima creazione. Questa è la funzione prima della grazia. Ma certo, la grazia non solo fa questo, ma ci fa arrivare ad un livello simile a quello di Dio, ci fa essere degli dèi. Dunque ci fa partecipare alla vita della Santissima Trinità. È una cosa inseparabile dall'altra, perché la grazia è sempre grazia di Cristo, che non solo è il redentore dell'umanità, cioè il medico, ma è Dio. È la persona divina del Verbo di Dio e dà la vita divina. Dunque lui restaura la natura umana per mezzo della sua grazia che ci viene comunicata, non solo individualmente, ma in un corpo, in una comunità. Il corpo di Cristo, che poi è la Chiesa, che per San Tommaso non è solo la Chiesa visibile, Cristo è il capo di tutti gli uomini. Dunque, in qualche maniera, almeno in potenza, tutti gli uomini sono nella Chiesa e sono uniti a Cristo. E dunque la restaurazione che produce la grazia abbraccia, anche se non sempre attualmente, tutta l'umanità, ma tutta l'umanità ha un solo destino, ha una sola finalità, che è quella di formar parte misticamente del corpo di Cristo. Leggiamo nell'articolo secondo: se l'uomo possa volere e compiere il bene senza la grazia. detto in termini più semplici, si può essere buona persona senza la grazia? Sembra che l'uomo possa volere compiere il bene senza la grazia, e da diverse ragioni, e poi cita San Paolo, che è fonte di Sant'Agostino, il quale a sua volta è fonte di San Tommaso. L'Apostolo afferma: non è di chi vuole il volere, né di chi corre il correre, ma di Dio che usa misericordia. E Sant'Agostino insegna, proprio nel libro, sulla correzione e la grazia. Senza la grazia, gli uomini non fanno assolutamente nessun bene, sia nel pensare, sia nel volere, sia nell'amare che nell'agire. Naturalmente questa affermazione di Sant'Agostino è scandalosa nel contesto contemporaneo, e non soltanto per quelli che non hanno una cultura cristiana, ma anche per quelli che hanno una cultura cristiana, che però è segnata profondamente dal naturalismo. Dal naturalismo nel senso che più o meno inconsapevolmente si ammette che l'uomo può funzionare bene da solo, senza la fede, senza la grazia, senza la carità. E dunque che sono da separare queste due dimensioni. Dunque una dimensione psichica che sarebbe autonoma e che sarebbe oggetto di una metodologia autonoma di analisi e di intervento, e un'altra dimensione umana che sarebbe più o meno inconscia o almeno separata, nella quale ci sarebbe un rapporto con Dio e con gli altri. E dunque uno potrebbe essere malato da una parte e sano dall'altra. Invece, nella visione che proviene dalla rivelazione, che a sua volta assume il realismo della filosofia migliore della tradizione antica, non è così. L'uomo è un'unità, e dunque dobbiamo considerarlo sia nell'analitica sia nella metodologia terapeutica secondo questa sua reale unità. E dice nella spiegazione del testo: la natura umana può essere considerata in due maniere. Primo, nella sua integrità, cioè come erano i progenitori prima del peccato. Secondo, corrotta, come era in noi dopo il peccato del primo padre. Dice in latino: secundum quod est corrupta in nobis, post peccatum primi parentis. In tutti e due gli stati suddetti, la natura umana ha bisogno, per compiere e volere il qualsiasi bene, dell'aiuto offerto da Dio come primo motore, eccetera, perché Dio in ogni vera operazione umana, cioè in quella in cui interviene lo spirito, agisce, perché non c'è una vera idea, se è idea, senza l'aiuto divino, come già spiegava Sant'Agostino e anzi Aristotele, l'illuminazione, la sorgente. Ma qui siamo ad un altro livello ancora. Però nello stato di natura integra, l'uomo era in grado, per l'efficacia delle sue facoltà operative, di volere compiere con le forze naturali il bene proporzionato alla sua natura, cioè il bene delle virtù acquisite, ma non un bene superiore, qual è quello delle virtù infuse. Che vuol dire questo? San Tommaso distingue molto chiaramente, con molto realismo, le virtù acquisite e le virtù infuse. Le virtù acquisite, come dice il termine stesso, provengono dall'operazione umana, dallo sforzo umano. Dunque c'è la giustizia, la fortezza, la temperanza, la prudenza acquisite. Soltanto che dopo il peccato originale, se non c'è la grazia, queste virtù sono sempre imperfette. Imperfette fino al punto che non permettono di realizzare tutti gli atti buoni che sono il loro oggetto. Detto in altri termini, sì, uno è giusto, però non può evitare sempre l'adulterio. Uno è temperato, però non può evitare sempre la fornicazione. Oppure è forte, però non può evitare certe debolezze importanti con gravi conseguenze. La virtù infusa è molto più elevata. Con la virtù infusa, cioè della stessa giustizia, fortezza, temperanza, prudenza, si possono realizzare tutti gli atti buoni e si possono evitare tutti gli atti cattivi. Dunque sono perfette relativamente alle prime, che sono imperfette. Dunque, nello stato di natura corrotta, invece, l'uomo impari a quanto potrebbe secondo la sua natura, cioè cosicché non è in grado di compiere tutto questo bene con le sue forze naturali. Tuttavia, non essendo la natura umana del tutto corrotta col peccato, al punto di essere privata di ogni bene naturale, l'uomo anche allora può compiere determinati beni particolari. Ma vediamo quali beni particolari. Come costruire case, piantare vigne e altre cose del genere. Ma non può compiere tutto il bene a lui con naturale, così da non commettere qualche mancanza. E qui viene l'analogia che permette anche dal punto di vista linguistico collegare il tema trattato qui da San Tommaso della natura umana corrotta con ciò che oggi è chiamato psicologia. Un infermo, per esempio, può da se stesso compiere alcuni movimenti, ma non è in grado di compiere perfettamente i moti di un uomo sano se non viene risanato con l'aiuto della medicina. Questo vuol dire, tradotto più semplicemente, l'uomo senza la grazia è malato. L'uomo senza la grazia è malato. Malato, ma malato a morte, vuol dire ha la natura corrotta. Certo, può fare alcuni movimenti, alcuni atti, ma non tutto il bene a lui proporzionato. Che vuol dire questo bene a lui proporzionato? Sono le operazioni umane, in quanto sono umane, in quanto cioè procedono dall'intelletto e sono finalizzate dalla volontà all'autentico bene. Dunque questo non lo può fare nella sua integrità, nella sua totalità. Certo, alcune cose può fare, può costruire una civiltà tecnica, questo lo può fare, costruire case, no? Piantare vigne, ma non si può realizzare il bene umano. E ciò vuol dire che la persona, intesa metafisicamente come persona, non può realizzare la sua perfezione, cioè non può arrivare al suo fine, che poi tutta la filosofia antica, continuata dalla filosofia patristica, chiamava la felicità, la beatitudine. L'uomo non può arrivare alla beatitudine e spesse volte neanche la conosce, perché anche l'intelletto è oscurato, come dice Sant'Agostino. È vero che nel primo articolo San Tommaso aveva detto che si può conoscere la verità razionale senza la grazia, si può fare una filosofia senza la grazia, ma dato che l'uomo è un'unità, anche questa filosofia spesse volte è pure corrotta, come diceva Platone. Sì, lui ha fatto una grande metafisica, però ha avuto la percezione adeguata di come erano i filosofi, Dunque anche nella Repubblica pure i filosofi sono corrotti. Dunque il problema è molto grave e c'è bisogno della medicina. E la medicina qui è da intendersi come una medicina totale della natura umana. E dunque una medicina che non è solo corporale, ma anche e principalmente psichica. Perciò nello stato di natura integra l'uomo ha bisogno di un soccorso gratuito aggiunto alla sua virtù naturale per un solo motivo, cioè per compiere e per volere il bene soprannaturale. Sia prima del peccato originale l'uomo poteva essere buono anche senza la grazia. Adesso non può. Sì, per arrivare alla perfezione rivelata da Dio, sì, aveva bisogno della grazia, ma poteva essere buono senza la grazia. Adesso non può essere buono senza la grazia. Buono vuol dire perfetto, come in Aristotele, buono, perfetto e fine sono lo stesso. Invece, nello stato di natura corrotta ne ha bisogno per due motivi, per essere guarito e per compiere il bene di ordine soprannaturale che è meritorio. Inoltre, in tutti e due gli stati, l'uomo ha bisogno dell'aiuto di Dio che dà la mozione per compiere il bene. Dio comunque interviene sempre nella vita umana, in quello che è propriamente umano, cioè che è spirituale. Ma questo intervento è generale, qui si tratta specificamente di quell'intervento per il quale la natura umana è guarita, è risanata. E questo lo fa Dio quando dona la sua grazia. Ma c'è ancora un altro testo della medesima questione, l'articolo 8. Se l'uomo senza la grazia possa non peccare. Qui approfondisce lo stesso tema e ancora l'analogia con la medicina, con una medicina completa, non solo con una medicina del corpo. Di nuovo fa la distinzione tra natura integra e natura corrotta. Nello stato di natura corrotta l'uomo ha bisogno della grazia abituale che risani la natura per astenersi totalmente dal peccato. E questo risanamento avviene prima nella mente, durante la vita presente, mentre l'appetito carnale ancora non viene completamente risanato. Ecco perché l'Apostolo così parla a nome dell'uomo redento. Questo è della lettera ai Romani 7. Io stesso con la mente sono servo della legge di Dio, con la carne della legge del peccato. E in tale stato l'uomo può astenersi dal peccato mortale che si attua nella ragione, come sopra abbiamo detto. Dunque, senza la grazia, l'uomo non può evitare il peccato mortale, ma qui la parola mortale è da capirsi secondo l'analogia piena della vita e della morte nel senso totale dell'umanità, non della vita corporale. Dunque, l'uomo corrotto non può che produrre, anche se non solo, atti corrotti, che sono quelli che sono chiamati morti, ossia mortali, non vivi. Dunque è vero che l'uomo non è del tutto morto e dunque alcuni atti da vivo può fare, ma non tutti. Questa è la chiave dell'articolo. Dunque, quando viene la grazia, viene prima la mente e dopo discende alle altre dimensioni della sensibilità, dunque ai sensi interni, agli appetiti, all'appetito irascibile, all'appetito concupiscibile. Ma mentre questo succede, cioè che la grazia discende, c'è uno squilibrio che propriamente possiamo denominare psichico. Dunque l'uomo con la grazia ancora è squilibrato, finché non sia totalmente risanato dalla grazia, ossia finché non diventa veramente santo. Come diceva Rudolf Allers, soltanto il santo è al di là della nevrosi, usando la parola di questi psicologi classici dell'inizio del Novecento, soltanto il santo è al di là della nevrosi. Questo vuol dire che gli stessi santi canonizzati, prima di diventare santi, erano nevrotici, ma non quando sono diventati santi. Perché la santità in senso pieno è la perfezione umana, non una perfezione umana astratta che è separata dalla natura e che è separata dagli atti. È la stessa natura che è risanata e anche perfezionata dalla santità, e non è separabile una cosa dall'altra. Ma questo richiede un lungo processo, anzi tanto lungo che normalmente non si attua in questa vita. Per questo esiste il purgatorio. Dunque, per risanare l'umanità, anzi la radice dell'umanità che è nell'anima, perché nel purgatorio non siamo uomini, siamo anime. Dunque l'uomo è risanato soltanto quando la grazia, come dice San Tommaso, discende totalmente alla carne, dalla mente alla carne, nel linguaggio paolino. Dunque, quando assimila e divinizza tutte le dimensioni dell'umanità, e dunque ogni singola parte dell'uomo è coordinata con le altre, perché Dio è unità, ma è ordine, come diceva Sant'Agostino. Dunque, l'uomo sano è un uomo ordinato. Dunque, è quello in cui ogni parte è a posto suo. Come diceva ancora Sant'Agostino, nella città di Dio, definendo l'ordine. Ma ancora continua il testo. Nello stato di natura corrotta, l'uomo ha bisogno della grazia abituale che risani la natura per astenersi totalmente dal peccato. Questo avviene prima nella mente. In tale stato l'uomo può astenersi dal peccato mortale, ma non può astenersi da ogni peccato veniale per la corruzione degli appetiti inferiori della sensualità, i cui moti la ragione è in grado di reprimere singolarmente, e a ciò essi devono la loro natura di atti peccaminosi volontari, però non può reprimerli globalmente tutti. In latino non dice reprimere, che suona un freudiano, dice resistere. Dunque, non può resistere singolarmente ad ognuno, non può resistere globalmente tutti, perché mentre tenta di resistere a uno, forse ne insorge un altro. Ed anche perché la ragione non sempre è pronta ad evitare questi modi, come sopra abbiamo spiegato. Questo vuol dire che il soggetto, anche quando ha ricevuto la grazia, non è unificato. E dunque in lui ci sono molte, molte fonti di disordine. È quello che San Giovanni della Croce, come vedremo subito se il moderatore me lo permette, descrive come i difetti dei principianti. Ma chi sono questi principianti? I principianti sono persone che hanno una vera vita spirituale, dunque hanno la grazia, ma sono all'inizio. Dunque, secondo la terminologia classica della spiritualità, i principianti non sono tutti quanti vanno nelle parrocchie, sono alcuni di questi. Dunque, sono quelli che hanno la grazia, non sono da identificarsi solo con quelli che fanno atti religiosi di culto o di devozione. sono quelli che hanno la grazia. Ma quelli che hanno la grazia sono ancora molto imperfetti? Molto. Tanto che si può tornare indietro e anche perdere la grazia. E dunque questo squilibrio iniziale della vita di grazia, che è il fondamento della vita cristiana, è pericoloso e va curato. E va prima capito, bene, secondo gli adeguati principi. Ma torniamo al testo. Inoltre, prima che la sua ragione, in cui si attua il peccato mortale, sia risanata dalla grazia, l'uomo può evitare i peccati mortali singolarmente per un dato tempo, poiché non è necessario che subito pecchi in maniera attuale, ma è impossibile che rimanga a lungo senza peccare mortalmente. Infatti San Gregorio Magno, afferma che il peccato non riparato subito con la penitenza, col suo peso, trascina ad altri peccati. Dunque, quando non c'è la grazia, perché c'è il peccato originale, perché c'è un peccato mortale, che per certi versi è peggiore del peccato originale, produce più corruzione, più squilibrio, perché? Perché è personale, il peccato originale si dissolve. E ciò si spiega col fatto che come l'appetito inferiore deve essere sottomesso alla ragione, così la ragione deve essere sottoposta a Dio e costituire in lui il fine della sua volontà. E il fine deve regolare tutti gli atti umani, come il giudizio della ragione deve regolare i moti dell'appetito inferiore. Ora, come quando l'appetito inferiore non è pienamente sottoposto alla ragione, certi moti disordinati nell'appetito sensitivo sono inevitabili, così quando la ragione umana non è del tutto sottoposta a Dio, sono inevitabili molteplici disordini negli atti della ragione. Infatti, se l'uomo non ha il cuore ben fisso in Dio, così da non volersi da lui separare, né per conquistare un qualsiasi bene, né per evitare qualsiasi male, capiteranno troppe cose per raggiungere, per evitare le quali, egli si allontanerà da Dio trasgredendo nei precetti, peccando così mortalmente. E questo specialmente perché nei casi improvvisi l'uomo agisce secondo il fine prestabilito. Questo è molto interessante perché in latino usa l'espressione preter ordinem finis preconcepti. Dunque c'è un preconcetto, un fine preconcetto, che vuol dire un fine che in quel momento in cui si agisce è inconscio. In qualche momento era conscio, ma in quel momento in cui il soggetto non può dominare totalmente i suoi atti, è inconscio. Dunque, come diceva Aristotele già, ognuno è secondo il fine che ha. E bisogna vedere qual è questo fine. Il problema è che se uno fa, come dice Frankl, e sceglie il senso della sua vita, il fine diventa cattivo, perché il fine è uno solo. Dunque il fine perfetto della natura umana è quello rivelato, ma c'è anche un fine non ancora perfetto, che è quello proporzionato alla natura umana, ma anche questo è uno solo, e anzi uno è incluso nell'altro. Il fine naturale non si può raggiungere senza il fine soprannaturale, almeno in modo perfetto. E dunque ognuno è secondo il fine che ha. E questo fine agisce in fondo a tutte le sue operazioni, anche quando non se ne rende conto, anche nelle situazioni improvvise, in cui non c'è tempo per pensare, l'attenzione non è sufficientemente forte. Chiaro, uno magari può avere un proposito buono, però arrivata l'occasione questo proposito viene meno. perché vince questo fine preconcetto. Dunque, e questo specialmente, ma poiché l'uomo non sempre può riflettere in tal modo, non può trattenersi a lungo dall'agire secondo la spinta della sua volontà non orientata verso Dio, a meno che la grazia, che dalla grazia non venga restabilito nell'ordine dovuto. Dunque, e l'uomo ha bisogno veramente dell'aiuto divino, perché altrimenti l'uomo è come un malato, dicendo San Tommaso, seguendo la sua analogia, e può fare alcuni atti buoni, come un malato può muovere il braccio, può muovere la gamba, eccetera, però non può fare tutti gli atti buoni che corrispondono alla sua natura. Quanto tempo? Secondo me, se volevo fare un po' di domande, 5 minuti. C'è ancora 5 minuti. Dunque, leggo brevemente qualche testo di San Giovanni della Croce che riguarda adesso i principianti. San Giovanni della Croce continua la tradizione classica, che è molto utile per noi perché fa vedere l'ampiezza dell'evoluzione spirituale. Dunque, stabilita già la vita cristiana sulla grazia, c'è bisogno di una lunga trasformazione, una profonda trasformazione, che la saggezza cristiana dei secoli precedenti, da Dionigi, dal pensiero medievale, eccetera, sistematizzata nel modo più chiaro da San Giovanni della Croce, distingue in 3 tappe fondamentali. Dunque, quella dei principianti, che sono quelli più legati alla sensibilità, anche se la grazia è già venuta e regola in modo un po' generico, astratto, tutta la sua vita. Poi la tappa dei proficienti, che sono quelli che seguono abitualmente la ragione e spontaneamente la ragione, ma sono ancora molto imperfetti se confrontati con la vera vita divina, che corrisponde a quello che loro chiamavano la via unitiva, in cui c'è l'azione piena dello Spirito Santo e la piena trasformazione prodotta dai doni dello Spirito Santo. Tra queste 3 tappe, secondo San Giovanni della Croce, ci sono le 2 notti oscure, la dos noches oscuras. Dunque, quella del senso, in cui il senso è smarrito, dunque la sensibilità nella consapevolezza del soggetto è totalmente disorganizzata, c'è nell'oscurità e perfino nella depressione, che può avere dei risvolti organici, secondo San Giovanni della Croce, può coesistere, dice lui, secondo le sue nozioni mediche, con la melancolia, la melancolia aveva radici organiche, no? Dunque, l'uomo ha la grazia, sì, però si sente male quando capisce, incomincia a capire, e qui il problema, perché è proprio qui quando i cristiani vanno dallo psicologo, ma lo psicologo normalmente non capisce questo, perché non ha studiato né San Giovanni della Croce, né la grazia, né San Tommaso, né Sant'Agostino, e dunque segue altri tipi di visione antropologica che dipendono fondamentalmente dalla filosofia moderna, dualista, di Cartesio, di Kant, di Hegel, e dunque questo non può dare la soluzione. Sì, si può razionalizzare un po' di più, si può spostare verso un lato della sensibilità, eccetera, però la soluzione vera non c'è. E dunque è qui dove si fa il danno pure. Dunque bisogna capire molto bene in questa tappa che cosa significa questa notte oscura, soprattutto del senso, perché quella diffusa, quella dello spirito, è molto più profonda. Che è quando un soggetto ben stabilito nella vita cristiana, nelle virtù, sente la vera distanza, la vera trascendenza di Dio. E dunque entra in un'oscurità ancora molto più profonda. Dunque, e gli sembra che è meglio morire. Dunque c'era Franz che ha trovato una suora carmelitana, non so perché i superiori l'hanno mandato a questa suora da Franz, e analizza il caso di questa suora e dice: ma questa ha delle tendenze patologiche profonde, dunque bisogna anche rimediare con delle droghe. Lui che fa la logoterapia, però in questo caso è voltare delle droghe, no? E dunque, ma questo non ha capito niente, Franco, che era ebreo, no? Aveva un maestro cristiano che era proprio Rudolf Allers, però lui era ebreo, anzi poi è diventato neanche ebreo, era esistenzialista, seguiva Heidegger un po' superficialmente, ma seguiva altri, ma non poteva capire questo. Dunque, ci vogliono i principi spirituali per capire queste situazioni. La psicologia, dal metodo unico, non può dare il rimedio, anzi, il metodo unico psicologico che tanti psicologi cercano è proprio la causa della malattia. Perché l'unicità del metodo è il riassunto della malattia che rappresenta la modernità filosofica. Dunque, Cartesio, il metodo unico. Kant, il metodo unico. Hegel, addirittura, il metodo è l'idea stessa, è la realtà stessa. L'idea assoluta è il metodo. E Freud è il metodo. C'è un discepolo di Maritain, che si chiama Roland Alpieri, ha scritto questo libro, no? Il metodo psicoanalitico e la dottrina freudiana. Dunque il metodo sarebbe ottimo e la dottrina sarebbe cattiva. Ma questo non si può fare, questa distinzione. Beh, la faceva lo stesso Maritain, no? Sbagliando profondamente. Dunque non si può separare il metodo freudiano dalla dottrina freudiana. Perché nel libro citato, Totem et Tabù, Freud dice chiaramente: io intendo la morale come la intende Kant. La ragione in Freud è la ragione kantiana, che è quella di Nietzsche, che è quella di Schopenhauer, eccetera, e anche di Hegel. Dunque, è impossibile non capire niente, separare il metodo dalla dottrina. No? Maritain sperava che attraverso Freud noi avremmo un cristianesimo ringiovanito, eccetera, no? Nei quattro saggi dell'uomo nella condizione carnale. Ma questo è impossibile. Perché il metodo unico è proprio la causa della malattia, il razionalismo. E spiegare tutto entro i limiti della pura ragione, come dice Kant. Ma i limiti della pura ragione umana sono proprio molto ristretti. Dunque c'è bisogno non di un metodo unico, anzi neanche di cominciare dal metodo. Bisogna cominciare dalla realtà. Il metodo, inteso come si intende oggi, un protocollo, una procedura, è qualcosa di secondario, di estrinseco. È la realtà umana intera e profonda quella che deve indicare come si fa la scienza, anzi le scienze, e come si trova l'unità, l'integrità, l'ordine di queste scienze. Bene. Bene, grazie professore, facciamo un altro caso. Amen. ha richiamato tantissimi spunti, quest'ultimo sul realismo, mi ha fatto venire in mente il mio carissimo punto di riferimento, che è Don Giussani, che diceva che bisogna, il metodo di indagine è stabilito dall'oggetto, non dal soggetto, no? E tanti altri spunti, però mi sembra intelligente lasciare spazio un po' alle vostre reazioni. Magari la relazione è anche stata abbastanza profonda, no? Quindi ci sta che non abbiamo capito tutto, che alcune cose vanno approfondite, che quello che mi interessava a me e che secondo me rende molto interessante, no? Di quello che abbiamo ascoltato, è che c'è una grande nostra professione nella nostra vita, altrimenti volentieri saremo al soldo di Kant, di Hegel, di chi comanda in questo momento, no? Allora, adesso prendo il gelato, come lo chiamo. Ecco, e lo passo a chi ha voglia di fare qualche domanda al professore. Un ringraziamento al professore, e proprio partendo, sottolineando questo ultimo contributo dell'inutilità, anzi della natura di questo metodo unico all'origine della malattia. E comunque, dal punto di vista nostro, di terapeuti che cercano di curare il disturbo, all'origine dell'insuccesso del disturbo. Perché, come diceva Stefano, il nostro lavoro deve guardare l'oggetto. Ora, l'oggetto qui è il paziente, è chi non sta bene. Cosa ci racconta lui senza sovrapporgli un metodo? Altrimenti noi non lo ascolteremo perché siamo disturbati da questo metodo unico. E in questo sta il grande pericolo di tutte le nostre scuole, nessuna esclusa. Perché appunto ci forniscono un metodo che ci impedisce di ascoltare la sofferenza dell'altro e anche la nostra risposta del tutto personale, per forza di cose, perché siamo noi che stiamo ascoltandolo, a quella sofferenza, sovrapponendo un metodo, che spesso ha proprio degli errori di fondo, tra l'altro, come proprio anche questo libro che lei ha citato di Freud, su cui si regge una buona parte del metodo freudiano, per cui io non voglio fare, ognuno può pensare come vuole, però questa teoria dell'uccisione del padre come ribellione dei figli per amore per l'amore incestuoso della madre è notoriamente una vecchia storia dello scientismo immediatamente dopo Darwin, che era già stata contestata duramente mentre Freud scriveva queste cose. In modo particolare ci sono tutte le ricerche di Malinowski nelle isole Dobrian, che studiano questi popoli primitivi, dove non c'è traccia di questo, non c'è traccia di questa dominazione del desiderio delle madri, ma soprattutto c'era già stata una smentita completa di queste ricerche condotte tra l'altro sulle scimmie, non nell'uomo, dell'Ottocento, che avevano dato luogo a questa teoria, questo metodo che Freud ha scelto perché era funzionale alla sua teoria dell'incesto. Quindi lì c'è tutto un impianto appunto metodologico nei confronti dei quali noi comunque dobbiamo esercitare la nostra capacità di critica, che poi ci porterà dove anche la nostra libertà ci condurrà, però dobbiamo prenderci questa responsabilità. Ecco, io volevo chiudere con questo ringraziamento. Che la ringrazio. Io aggiungerei la dimensione comunitaria, perché abbiamo parlato del soggetto personale, però il problema del metodo unico non riguarda solo il soggetto, riguarda la comunità, perché isola il soggetto dalla comunità. Infatti questa visione da professione liberale dello psicologo, che è di fronte al paziente, lui da solo, spesse volte solidale di una visione da una parte individualistica dell'uomo, dall'altra parte astratta, cioè l'umanità, come dice Freud, però questa umanità è un'idea astratta. Invece la vera guarigione, che poi è quella che propone il cristianesimo con la grazia, non si dà da soli, si dà nella comunità. Non esiste guarigione da solo. Quel terapeuta deve avere una sua esperienza comunitaria. Il tema dell'amicizia è uno dei pochissimi dibattuti nel nostro campo, interessante, no? L'amicizia. Ok. Qualcun altro. Io volevo chiedere una cosa, perché ho studiato abbastanza Frank, che lei ha citato. Sì. E un punto che io ritengo positivo del suo pensiero, un'intuizione secondo me felice, è che lui ha individuato la mancanza di senso, cioè come una delle cause della nevrosi di oggi, appunto questa perdita del senso. E poi le rendo merito, perché effettivamente avendo frequentato una scuola franchiana, tra colleghi ti battevamo tantissimo sulla questione del senso, perché a volte provocatoriamente un mio collega diceva: per un kamikaze il suo senso può essere, cioè, farsi saltare, no? Proprio può diventare veramente di tutto. Per cui effettivamente è un punto debole della sua dottrina, però in tutte mi sembra felice, e quindi anche tutto il lavoro che lei sta facendo sulla questione del fine, no? Di questo fine che l'uomo ha, e che oggi non si sa più, forse non ci si crede neanche all'altezza di un fine così, così grande, così divino. E l'altra cosa che volevo chiedere, no, se poi mi può rispondere appunto in merito a Frank, ecco, l'altra cosa, Frank parla anche tanto della coscienza come organo di senso, no? Quindi come quella voce, alla fine, dove possiamo incontrare anche Dio, in qualche modo lui poi arriva anche a dire, più o meno, secondo me sì. E, però questo punto, cioè, mi richiama anche un po' al fatto che effettivamente, secondo me, può essere anche un modo, oggigiorno, quando ci approcciamo alle persone, per fare anche un po' capire dove parla lo spirito di Dio, no? Cioè nella nostra interiorità. È vero che ci possono essere tante voci, però in un certo senso Dio, cioè come anche diceva Sant'Agostino, no? È prima di tutto, non so come dire, cioè abbiamo questo richiamo dentro. Quindi queste due intuizioni, ecco, mi sembrano due intuizioni felici. Effettivamente la questione del fine è molto importante, perché altrimenti non si sa dove andare per essere felici, quindi... Bene, okay. Bene, sono d'accordo con te, il fine è fondamentale, è la dimensione principale della vita umana. Il problema è poi, il fine è poi il senso della vita, no? Perché qui il senso, anche se è una metafora, però vuol dire fine. Dunque, il problema è che negli scritti di Frank potremmo distinguere due aspetti. Non so se è il mio telefono, questo sì. Adesso lo so. Negli scritti di Frank potremmo distinguere due aspetti, confrontando con Platone, no? Uno exoterico e uno esoterico. Dunque, l'aspetto exoterico di Frank in qualche modo va bene, dunque la gente che è disorientata, che non capisce niente della propria vita, che cerca la soddisfazione in quello che non sa dove la porta, questa gente ha bisogno di capire che la vita ha un senso. Dunque fin qui Frank va bene. Dunque in un senso che non va troppo in profondità, secondo il quale Frank è diverso da Freud, va bene, sì, questo serve. Il problema è l'aspetto esoterico di Frank. Dunque, quando analizziamo i suoi scritti e andiamo a vedere che cosa vuol dire questo Dio, ma ogni tanto dice: ma Dio è l'essere di Heidegger, E dunque, qui dobbiamo fare attenzione, ma l'essere di Heidegger è Dio? Oppure, quando ognuno parla con se stesso in ogni sincerità, con una sincerità completa, in realtà sta parlando con Dio, e dunque Dio può essere la voce di se stesso. E finalmente, quando dice che le religioni organizzate producono della coercizione, eccetera, eccetera, qui ho portato proprio un testo, che non l'ho letto, di Franco su questo, sulle religioni, no? Dunque, per lui la religione finalmente è sempre manipolazione quando vuole essere una religione determinata. Ma Franco viveva a Vienna, no? La religione determinata è il cattolicesimo, la stessa di Freud. Freud è nato in un paese cattolico, un impero cattolico, l'impero austro-ungarico, una concezione tradizionale. Dunque, per Frank, anzi, Frank si è rivolto contro il suo padre spirituale e intellettuale, che era Rudolf Habermas, perché lo cita dappertutto, però non accetta la cosa fondamentale. E dunque, qui c'è un problema molto grosso in Frank. Dunque, io direi, per la gente molto lontana può andare bene, per un cattolico, per una persona che ha vita spirituale, può fare danno. Un minutino, quindi se qualcun altro vuole fare un'ultima domanda. Non conosco molto Santa Maria della Croce, che non ho approfondito, solo di passaggio, però mi colpiva molto nella notte scura questo che San Giovanni dice di guardare all'amato per diventare sempre più simile a lui. E allora mi domando, come terapeuta, nel processo terapeutico, nelle conversazioni, come possiamo possibilmente fare presente l'amato? Sì, ma questo soprattutto lo sviluppa San Giovanni della Croce nel Cantico Spirituale, dunque dove fa la metafora nuziale, che continua quella di tutta la tradizione e anche proprio del Cantico dei Cantici della Sacra Scrittura. E si sta riferendo ad una tappa della vita spirituale veramente molto elevata, in cui agisce il dono della sapienza dello Spirito Santo, che fa percepire sperimentalmente le verità divine. E dunque e non bisogna fare delle trasposizioni affrettate, cioè, perché a questo punto una dottrina molto elevata diventa sentimentalistica e finalmente produce l'effetto contrario. Però quello che lei dice è giusto. Dunque, bisogna cercare, come il nocciolo, la radice, il germe, di un'evoluzione che si intravede veramente molto alta, molto, molto lunga, molto intensa, e questo germe è sempre nella carità. Dunque, finalmente, questo metodo unico di cui parlavamo, che si cerca spesso volte nella psicologia, ognuno è un po' disperato per cercare il metodo salvatore, no, deve essere rimpiazzato dalla carità, perché la carità è realista, la carità guarda la persona veramente com'è. La carità guarda la persona in rapporto anche a colui che l'aiuta, la carità guarda la persona anche in rapporto agli altri, cioè la carità che è fonte di conoscenza, no, anzi nel dono della sapienza dello Spirito Santo c'è proprio una conoscenza prodotta dall'amore. Questa è l'analogata principale di ogni altro tipo di conoscenza personale. L'affetto non può essere separato dalla razionalità, diversamente da quanto pensava Freud e sulla base di Freud tanti altri. Dunque è impossibile, perché quello che guarisce, anche quando qualcuno dice che gli ha fatto bene la psicanalisi o altri metodi, quello che guarisce è un rapporto personale, perché sono persone isolate, e dunque lì comincia la natura a mettersi in movimento, e eventualmente c'è un'apertura anche alla grazia per mezzo della carità, almeno da una parte, no? Se lo psicoterapeuta ce l'ha. In questo senso la missione dello psicologo oggi è molto importante, chiaramente, no? Perché come l'avanzata dell'azione terapeutica di Cristo attraverso la Chiesa, e dunque raggiunge quello che noi sacerdoti spesso volte non possiamo raggiungere, e che dunque raggiunge il cuore delle persone. Che è quello che, se questa è un po' una mia domanda, che è quello che in un articolo che lei ha scritto, Cristo e la sua relazione con la psicologia, chiama sacerdozio comune dei fedeli? Sì, anche questo, la missione dello psicologo certamente si inserisce in questo sacerdozio comune dei fedeli, ma potremmo anche fare altri riferimenti, per esempio Dionigi l'Areopagita, che ha una visione molto completa della vita della Chiesa, in cui anche i laici entrano nella gerarchia. E dunque c'è l'ordine dei monaci che trasmette quella luce divina che viene attraverso i vescovi, i sacerdoti, i diaconi, e i monaci la trasmettono al popolo. E in qualche maniera questa funzione è vicina al diaconato da una parte, perché lui stesso dice che i limiti di quello che è superiore si toccano con la parte superiore di quello inferiore, no? E dunque è come la connessione, eh? E dunque anche gli psicologi hanno una funzione monastica che è in qualche modo contemplativa ma pure terapeutica. Dionigi stesso ricorda questo nome, i monaci erano i terapeuti. Bene, bene, grazie professore per questa lezione. Ci ha dato tantissimi spunti, abbiamo anche l'assemblea di domani come luogo per poter magari tirar fuori eventuali domande o approfondimenti. Adesso, mentre...